decisioni. Prese di posizione, anti-America o pro-Antacruel. Nebbia rigida, cazzata vivida. Bugia, difensiva, difensile, bugie. Mentite, si sente l'aria per razioni. Cambiamenti, sono solo menzogne. Vita libera. Odio del moderno, pronti decisioni, in una vita libera, a parte pronti, in una vita libera, non sto ai cambiamenti, non scendo a compromessi, sono immalleabile, non sono plagiabile, non sono plagiabile, non sono plagiabile, non sono fatica ipocrita. Fatica ipocrita.